cazzo da rifare, odore da svenire, roba da lavare. C'è chi sta peggio e forse non lo sa, sono solo e questa la realtà. La birra non manca, non sono annoiato, mentre divoro un altro pasto sbagliato. Domani, lo giuro, ci penso davvero, metto tutto a posto e comincio da zero. Comincio da zero. Metto nella mente le cose da fare, sono già stanco soltanto al pensare. Casca qualcosa, è carta stracciata, è un'altra bolletta non ancora pagata. Tanto qui non mi chiama nessuno, il telefono non serve, è meglio del fumo. Rido, canto, ballo con me stesso e stringo tra le mani la carta del cesso. Sono solo io. Per essere franco, le cose non vanno e lei se n'è andata, lo ammetto, ho fatto la cosa sbagliata. Fotografie girate, non voglio il suo viso, sento ancora la voce di chi ha deciso. C'è poco da fare, son solo davvero, comincia per me l'anno zero. L'anno zero. L'anno zero. L'anno zero. La radio mi annuncia che fuori c'è il sole, ma dentro di me la tempesta mi assale. Si sente.